Linee d'ombra di Matteo Caccia. Un pezzo agghiacciante che non ha bisogno di molte parole, altro che di essere ascoltato soprattutto da parte dei giovani, dei giovanissimi. Appena in un film c'era la parola sesso, mamma cambiava canale. Anni dopo le chiesi perché e la sua risposta fu che voleva evitare che noi facessimo domande. Storie di molestie e di pregiudizi in una puntata che si intitola Solo le donne lo sanno. C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta. Sì, è una radio. Musica leggera, cielo, stelle, cuore, amore, amore. Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra, con le mani piene le mie, fortemente, girandomele all'incontrario, la sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola, Dio che... E confusione. Lei è Franca Rame, è la voce di Franca Rame in uno dei pezzi probabilmente più struggenti, intensi e difficili che ha fatto su un palcoscenico durante la sua vita. Si intitolava Lo stupro, questo monologo, e raccontava a distanza di un paio d'anni esattamente quello che a lei era successo nel 1973. Aveva subito una terribile violenza sessuale da parte di un gruppo di persone. C'era dietro una storia legata al mondo politico di quell'epoca, della Milano e dell'Italia degli anni 70, e lei dopo 2 anni ha il coraggio di scrivere questa storia e di raccontarla davanti a tutto il pubblico di tutti i teatri italiani. Ve l'abbiamo fatto sentire in apertura perché la puntata di oggi si intitola Solo le donne lo sanno. Oggi vi raccontiamo, come sempre facciamo, 2 storie che sono diverse ma sono unite da un unico punto, da un'unica linea di confine, no? Si intitola Linea d'ombra per quello, questo programma, perché cerchiamo di raccontarvi delle storie che hanno in mezzo un piccolo confine, un piccolo passaggio, e probabilmente il confine delle storie che vi raccontiamo oggi, la sottile linea d'ombra delle storie che vi raccontiamo oggi, ha proprio a che fare con quello, con i generi, con il maschile e il femminile, ma anche con tutti quanti i pregiudizi che ci sono nei confronti l'uno dell'altro, e soprattutto con quello che rappresenta il confine tra quello che è molestia e quello che non lo è. È un tema molto, fortunatamente anche molto dibattuto, soprattutto in questi ultimi anni. Il tema delle molestie sessuali è di fatto finito sulle prime pagine dei giornali, nelle prime notizie dei TG e dei GR, perché è diventato di dominio pubblico quando persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, soprattutto, che quindi hanno una voce per raccontarlo, hanno raccontato come alcuni uomini avevano usato il solo fatto di essere degli uomini, unito al potere che avevano in mano, per poter approfittare della persona che avevano davanti, che per lo più era una donna. E non più tardi di qualche settimana fa mi è capitato, parlando con un amico che è una persona per bene e con cui insomma per lo più non ci confrontiamo su macro temi dell'esistenza, ma facciamo le cose che si fanno quando si è tra amici, ecco, come noi ad esempio non si hanno figli, per cui si vanno a vedere partite, si esce, si mangia qualcosa insieme. Ebbene, un giorno ci siamo trovati per vari motivi a parlare proprio di questo tema, e il tema era: hai mai pensato se qualcosa che tu hai fatto nei confronti di una donna, senza usare violenza, senza voler essere cattivo, ma hai mai pensato se quella cosa può essere stata una piccola o una grande molestia? Cioè, se una cosa detta in un momento in un preciso di un rapporto, se il fatto che tu ti trovassi in una piccola posizione di potere, non bisogna essere il presidente del consiglio o un grande produttore di cinema di Hollywood per avere tanto così di potere in più rispetto alla persona che hai davanti. Ecco, ci domandavamo, hai mai pensato se magari senza nemmeno accorgertene quello che hai fatto può essere stato vissuto come una molestia? Ecco, questa è una domanda che è rimasta un pochettino insoluta, alla quale io non so rispondere onestamente, o meglio, ognuno risponde per sé. Noi quello che facciamo qui è raccontare storie, quindi cominciamo a raccontarvi una storia. La prima storia che vi raccontiamo arriva da un'ascoltatrice che non ha voluto partecipare e probabilmente un pochettino capiamo il perché, ma da un'altra parte ci dispiace, perché effettivamente il tema del denunciare quello che è successo, anche solo del raccontare quello che ci è successo, anche se non è una violenza carnale quella che raccontiamo, ma è di fatto una molestia violenta a tutti gli effetti, può averci segnato drammaticamente. Però tant'è, noi ovviamente accettiamo il fatto che lei non voglia partecipare, la ringraziamo per averci mandato la storia. La seconda storia invece è una storia molto più leggera, racconta di una donna pilota e di come viene vissuta il fatto che al volante, o meglio al timone di un enorme aereo che porta 300-400 passeggeri ci sia proprio una donna. Benvenuti a Linea d'Ombra. Facevo le scuole medie, avevo 12 anni. Alle mie spalle una meravigliosa infanzia. Un'infanzia praticamente pura, vissuta in mezzo a tanti animali da cortile, con una nonna amorevole, un grande giardino, tanti boschi attorno a casa da esplorare, con il mio cane al seguito, e un mare di libri. Le uniche note dolenti, i litigi un po' violenti tra mio padre e mia madre, e i colpi di testa di una sorella 6 anni più grande di me, che pensava un po' troppo ai ragazzi e all'aspetto fisico. In casa mi sentivo amata, ma la mia indole curiosa veniva puntualmente sopita dagli atteggiamenti dei miei genitori. C'erano tante domande riguardo alla sessualità che avrei voluto fare, ma che non mi sono mai permessa di fare. Semplicemente non chiedevo, non domandavo, ci pensavo e basta. Sapevo che erano argomenti da non trattare, o comunque le risposte sarebbero state vaghe, imbarazzate, imbarazzanti e assolutamente non esaurienti. Ad esempio, ricordo un anno e mezzo prima quando ebbi il menarca, il primo ciclo di una ragazza. Ero su di giri, agitata, felicissima. Sapevo essere un grande traguardo, anche perché sapevo che a mia sorella era capitato qualche anno prima e sapevo che voleva dire che stavo diventando una signorina. Ma che cosa significasse, cosa implicasse questo diventare signorina, proprio non si capiva. Io chiedevo, ma niente. Avevo capito che c'entrava con il sesso, ma tutto qua. Il sesso, parola nera, sporca, da dire sottovoce. Appena in un film c'era quella parola, subito mamma cambiava canale, anche quando due attori si baciavano. Anni dopo le chiesi perché e la sua risposta era che voleva evitare che noi facessimo domande. Peccato, perché in futuro mi sarebbe servita qualche risposta esatta, o insomma almeno qualcosa che mi chiarisse le idee. Un pomeriggio, finito il corso di inglese, decisi di accompagnare, come spesso facevo, Eloisa, un'amica, fino a casa sua. Abitava verso il centro del nostro paese, mentre io vivevo vicinissima alla scuola, ma dall'altra parte. Tanto il pomeriggio poi sarebbe stato tutto dedicato ai compiti, e quindi tanto valeva fare almeno due passi e una chiacchierata. Una volta arrivati da lei, ci salutammo fuori dal portone di casa e io mi avviai verso la mia di casa, passando tra quelle stradine poco frequentate a quell'ora. Saranno state le 3 del pomeriggio, faceva caldo. La scuola sarebbe finita il mese dopo. Indossavo una t-shirt leggera, larga, verde. Mi vergognavo delle mie forme. Avevo già il seno sviluppato e a dispetto di mia sorella, bella, perfetta, atletica, con gli occhi azzurrissimi, io mi sentivo goffa in quelle che, invece, riguardando le vecchie fotografie, altro non erano che le mie giuste rotondità. Sì, ero più alta, più robusta di quelle della mia età, ma non ero affatto brutta. Ero io che mi vedevo così. Anzi, credo fosse stata l'influenza di mia sorella a rendermi un brutto anatroccolo. Lei era fissatissima col peso. Con il minimo accenno di peluria, con ogni piccolo segno, brufolo. Io no, non ero così. Non sono così nemmeno adesso. Non fa proprio parte della mia indole. Ma qualche tarlo dentro di me lo lasciò a quei tempi. E quelli erano i tempi della preadolescenza, dove ti senti sempre inadeguata. figuriamoci quando accanto a te c'è qualcuno che ti dice in faccia che non vai bene così come sei. Ma torniamo a quel pomeriggio, che sarebbe stato il crocevia della mia esistenza. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments, to leave them behind you, turning nightmares only shadows, cast some light and you'll be alright, cast some light and you'll be alright for now. Crosses alone, sirens inside you, waiting to step forward, disturbing silence, darkens your sight, cast some light and you'll be alright, cast some light and you'll be alright for now. Camminando mi accorsi che dietro di me c'era un ragazzo in bicicletta. Era molto più grande di me, un po' grasso, con i capelli neri. Aveva una bici con la canna arcobaleno. Ogni tanto mi superava, faceva il giro dell'isolato e poi me lo ritrovavo ancora dietro. Si fermava, faceva finta di guardare qualcosa, cambiava la cassetta nel Walkman e poi ricominciava a pedalare molto lentamente dietro di me. Il mio cuore batteva all'impazzata, arrivò sino in gola. Iniziai a velocizzare il passo, nella mia testa risuonava un allarme assordante che mi diceva di correre. Sudavo, sentivo le ascelle che si inzuppavano ad ogni respiro. Mi giravo di scatto per rassicurarmi. Chissà, magari stavo esagerando, magari era solo una mia impressione, magari è solo un po' matto e solitario e sta ciondolando così per passare il pomeriggio. E invece no, era sempre lì. E stavolta mi guardò in faccia con un'espressione strana. Mi misi a correre fortissimo. Suona un citofono, uno a caso, così consigliava sempre mia madre, ma non c'erano case in quel momento. Da un lato c'era la biblioteca con la scuola, dall'altro un'altra scuola, e al pomeriggio quell'ora era tutto chiuso. Dovevo raggiungere la casa del baffone. Il baffone era un signore, appunto, baffuto, che abitava sulla strada per tornare a casa. Era sempre gentile con me. Ero quasi arrivata da lui, mentre quel ragazzo mi prese. Mi bloccai inerme, dritta in piedi, con lo sguardo fisso in avanti, le mani a coprire la mia bocca, e lui che mi prendeva il seno tra le mani e palpava. Durò forse 3 secondi in tutto, ma a me sembrò un'eternità. Appena se ne andò, io tolsi le mani dalla mia bocca, da cui uscì un urlo lunghissimo, fortissimo, e piansi. Mi trascinai fino a casa con gli occhi gonfi, lucidi. Mi soffiai il naso nella maglietta vicino ad una siepe, attraversai la strada, entrai in casa, aprii la porta del bagno e vomitai. Mi feci una doccia lunghissima e vomitai ancora. Quel giorno la mia infanzia pura venne spezzata, spazzata via, ed entrai a pie pari in quella che sarebbe stata un'adolescenza tormentata, fatta di bulimia, un tentato suicidio, relazioni sbagliatissime, una sessualità estrema e anche l'uso, a volte esagerato, di alcol e droghe. Ci ho messo tanti anni, ho dovuto sbagliare tante volte prima di rialzarmi e scrollarmi la polvere di dosso e tornare ad essere la bambina che ero prima di quel terribile giorno di fine maggio. Ho ricominciato ad apprezzare gli animali, la vita, la natura. Ho ricominciato a disegnare e a giocare con la mente, a cantare ad alta voce. È stato un lungo percorso, ma mi sono salvata. Con la matura consapevolezza che oggi ho imparato a difendermi, a rispondere alle molestie, ma soprattutto ora che io ho una figlia, anche se ancora molto piccola, so che saprò avere il coraggio di rispondere a tutte le sue domande. Alla fine i bambini capiscono tutto, bisogna solo trovare le parole giuste. Thank you. La puntata di oggi si intitola Solo le donne lo sanno e mi viene da dire che a maggior ragione dopo la storia che vi abbiamo raccontato della nostra ascoltatrice che, come dicevo in apertura, non vuole partecipare, probabilmente è ancora più vero. Ci sono cose che forse gli uomini devono davvero imparare a capire perché appunto possano comportarsi nel modo giusto e corretto nei confronti delle donne. Noi, visto che appunto l'ascoltatrice non l'abbiamo potuta raggiungere al telefono, non abbiamo approfittato per approfondire questa argomento, quindi abbiamo chiamato una studiosa di problematiche di genere e in particolare di prostituzione, di tratta e violenza delle donne. Lei è una ricercatrice del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Milano Bicocca, la dottoressa Giorgia Serughetti. Dottoressa Serughetti, buongiorno. Buongiorno. Grazie mille per essere qui innanzitutto. Voi portate avanti all'Università Bicocca di Milano un progetto che si chiama ADV Project. Ce lo racconta in pochissime parole? Sì, è un progetto che nasce dall'esigenza di approfondire meglio tutte le tematiche relative alla violenza contro le donne, in particolare nasce intorno al nucleo di problemi che chiamiamo violenza domestica, ma insomma poi si amplia a considerare tutte le facce, le sfaccettature della violenza. Senta, c'è un problema di comprensione, c'è sicuramente un problema culturale, giusto, immagino, ma c'è anche un problema di comprensione da parte degli uomini di alcune tematiche. Lo dico da uomo e lo dico anche con un certo imbarazzo. È dello scorso mese di novembre una ricerca realizzata dall'Istat che rivela delle cose sconvolgenti rispetto all'idea che la popolazione ha rispetto ad esempio al tema della violenza, no? Il 24% delle persone pensa che le donne possano provocare violenza sessuale con il loro modo di vestire, ad esempio. Questa è una cosa che sembra nel 2020 sembra incredibile da dire, invece il 24% delle persone, cioè quasi una su quattro, com'è possibile? C'è una resistenza molto forte al cambiamento, diciamo, dei propri modi di pensare, quindi una resistenza di pregiudizi che tipicamente poi precipita intorno al fatto che la donna viene considerata corresponsabile della violenza che subisce. Questo lo si vede in moltissimi ambiti, no? Dalla violenza sessuale, appunto, in questo caso quando si dice che in fondo se l'è cercata per il modo in cui si vestiva, al modo in cui spesso vengono raccontate anche dai media le violenze che per esempio avvengono in seguito a una separazione, in cui viene messo l'accento sul fatto che la donna voleva lasciarlo, o magari voleva, no, fare una vita diversa, e questo ha gettato lui in un tale sconforto che l'ha portato ad una violenza omicida nei confronti della ex. E questo in qualche modo è un modo sempre per deresponsabilizzare il colpevole della violenza e corresponsabilizzare, se non proprio apertamente colpevolizzare, la vittima della violenza. Nella storia che abbiamo appena raccontato, la protagonista ci racconta come il fatto che lei da bambina chiedesse delle cose legate alla sessualità e la madre in particolar modo non rispondeva, era sempre molto evasiva, le abbia creato dei problemi, al punto che lei stessa chiude dicendo: ora sto molto meglio dopo questa molestia, sono passati molti molti anni, ha avuto delle enormi difficoltà, ma ora sono felice perché ho una figlia e so che le dirò tutto, risponderò a tutto quello che lei mi chiederà, perché dice alla fine i bambini capiscono tutto, bisogna solo trovare le parole giuste. Ecco, la domanda è: non solo i bambini, anche gli adulti capiscono tutto, dottoressa? Cioè, quanto è importante usare le parole giuste e quanto è importante dare le definizioni giuste? Ad esempio, la parola molestia, per esattezza, è stata codificata, lo dico veramente non tanto per le donne all'ascolto, ma per noi uomini. Beh, codificata sì, all'interno, diciamo, del codice penale, come all'interno della violenza sessuale. Qualcuno trova che questo sia anche inopportuno, perché in qualche modo i diversi livelli di gravità poi delle violenze, insomma, potrebbero anche essere trattate in maniera specifica. Però più che di una definizione, diciamo, codificata, quando parliamo tra noi abbiamo bisogno di capirsi su qual è il vero punto, no? Qual è il significato che dobbiamo trattenere. Dobbiamo sapere che se parliamo di molestia, così come se parliamo di stupro, così come si parla di violenza domestica, cioè in un continuum di tutte queste manifestazioni di violenza, stiamo parlando di una manifestazione di una diseguaglianza di potere, cioè ha sempre a che fare col potere. La violenza che subisce una ragazza sull'autobus che viene palpeggiata è comunque un esercizio di potere da parte di qualcuno che pensa che quell'autobus sia più suo che di lei, cioè che lui abbia più diritto posto, di abitarlo e quindi di imporre le sue regole in quello spazio, e che ci sia un corpo che quindi in qualche modo va incontro a dei rischi, a degli ostacoli, no? Nell'esercizio pieno della sua libertà quando sale su quell'autobus. Questo è il problema ed è da qui che bisogna partire, quindi raccontarlo bene, raccontarlo con le parole giuste, ma proprio perché dobbiamo capire qual è la vera posta in gioco. Voi, dottoressa, nel vostro progetto ADV, che sta per Against Domestic Violence, usate il racconto, lo usate in maniera particolare? No, noi soprattutto siamo, siccome siamo un progetto di carattere accademico, quello che facciamo è fare tanta formazione. Cerchiamo di formare attraverso progetti, anche con gli enti locali e altre istituzioni, le figure professionali che devono rapportarsi in, da ogni angolatura con chi ha subito una violenza, ma anche con chi può subirla. Quindi diciamo la formazione deve essere a tutto campo, no? Dalle insegnanti, dagli insegnanti che lavorano quindi con a partire dall'infanzia, no? Con le nuove generazioni, fino a chi invece ha nei servizi sociali, così come nei presidi medici, nelle forze dell'ordine, nella magistratura, ha a che fare con le effettive vittime. Dottoressa Sorghetti, la ringrazio moltissimo, e se per caso qualcuno all'ascolto vuole saperne di più, cercate ADV Project sul sito dell'Università Bicocca di Milano. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie. A presto, buona giornata. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. Ringraziamo ancora la dottoressa Serughetti per averci raccontato che cosa fa e soprattutto che cosa bisogna fare e come bisogna comportarsi per capire meglio il contesto in cui si è. Il tema di cui lei parlava, cioè il fatto che la molestia è sempre una questione di potere, credo che sia il centro davvero di tutto quanto il discorso. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare una storia che è una storia molto più leggera rispetto a quella che vi abbiamo raccontato. È di una donna pilota e di tutti i pregiudizi legati al fatto che lei sia una pilota, ma soprattutto sia una donna. Linee d'ombra. Solo le donne lo sanno, si intitola la puntata di oggi, e dopo la storia con cui abbiamo aperto e soprattutto dopo la telefonata con la dottoressa Serughetti, che ci ha raccontato con grande precisione il tema del potere, è davvero dirimente. Ne parlavo adesso con Anita e con Paolo Corleoni, l'esempio che ha fatto la dottoressa riguardo all'autobus, riguardo al concetto di io ho più diritto di stare di stare in questo luogo, è assolutamente illuminante, davvero la ringraziamo. Andatevi a cercare qualcosa riguardo a quello che fanno ADV Project, è dell'Università Bicocca di Milano. Comunque solo le donne lo sanno, si intitola questa puntata, e ora continuiamo a raccontare, continuiamo a camminare su quella linea d'ombra, no? Su quel confine nemmeno così sottile che demarca l'essere donna dall'essere uomo e che demarca la molestia dalla non molestia. E ora vi raccontiamo un'altra storia molto più leggera, ma non per questo è meno significativa. È la storia di una donna che fa un mestiere che per moltissime persone, per quella che viene definita l'opinione pubblica, potrebbe essere un mestiere da uomo. È la storia di una pilota. Lei si chiama Anne Aldrich. State con noi. Siamo su un volo interno negli Stati Uniti. Un volo che dalla costa ovest vola per circa 6 ore sopra tutto il continente verso la costa est. È sera. I passeggeri hanno una gran voglia di partire perché le luci si possono spegnere e loro possono iniziare a dormire. Si sente la voce del capitano che prende la parola dall'interfono dell'aereo e con la sua voce gracchiante e rassicurante dice qualcosa. è la voce di una donna, che però invece di parlare del tempo sul percorso o della durata del volo, incredibilmente parla di sé. But you know what the really good news is, you guys? I'm gonna be your pilot flying to New York tonight. I know, isn't that awesome? I know. Thank you. I know. I just graduated pilot training yesterday and I'm very excited for my first flight. Sapete qual è l'ottima notizia? È che stasera sarò il vostro pilota su questo volo, dice, verso New York. Mi sono appena diplomata alla scuola di pilota e sono molto emozionata per questo mio primo volo. Silenzio. E poi dice, ok, sto scherzando. La reazione della gente sull'aereo prima è basita, poi è divertita, però è comunque insospettita. Ma Anna non si ferma e continua a parlare. I'm just kidding. I've been flying airplanes since I was 17. Can you believe that? I know. These last 2 years have been very exciting, so that wasn't that. Volo sugli aerei, dice, da quando ho 17 anni e questi ultimi 2 anni per me sono stati veramente straordinari. I passeggeri ridono, ma in realtà sono straniti. Una signora chiede al marito se per caso questa donna non sia ubriaca. Qualcuno fa un urletto di approvazione dai posti in fondo all'aereo. L'atmosfera però ora è molto diversa da quella che di solito si respira su un volo di linea. Il viaggio aereo è un tipo di esperienza aziendale che è molto ordinata, è sempre ritualizzata, è impersonale. Lei invece è esattamente l'opposto di un'azienda. È una persona. E in questo caso gli autori di This American Life, dove abbiamo trovato questa storia, l'hanno rintracciata per chiederle come è successo esattamente, come e che cosa stava cercando di fare su quel volo. E la risposta che Anne ha dato quando le hanno fatto questa domanda è stata per stemperare la paura di volare di alcuni passeggeri. Le persone che hanno paura del volo, dice, vengono da me alla fine del volo e dicono: non ho avuto paura proprio perché tu mi hai fatto ridere. Ma qui in realtà c'è di più. Non si tratta solo di avere paura e di far ridere. Come dice Anna, qua si parla del fatto che al comando di un bestione che vola a 10.000 metri di altitudine, a una velocità di 800 km all'ora, ci sia una donna. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. Sono decisamente migliore come pilota di quanto non lo sia come comica, racconta Anna. Ma penso che sia assurdo che nel 2020 la gente trovi ancora molto strano vedere una donna ai comandi di un aereo. In uno dei miei discorsi predecollo, racconta Anna, a volte esco dalla cabina e parlo direttamente ai passeggeri, in piedi, di fronte ai primi posti a sedere, e dico: sì, sono una donna e sarò il vostro pilota che vi porterà a New York questa sera. E vedi tutte le teste che si alzano oltre lo schienale del seggiolino di fronte. E quindi aggiungo di solito un: beh, vedo che ho ottenuto più attenzione della frase «qualcuno ha lasciato un portafoglio al check-in». Oggi, a livello americano, secondo l'Associazione Americana dei Piloti di Linea, circa il 5% dei piloti di compagnie aeree commerciali sono donne. Anna ha volato per 10 anni per la TVA, fino a quando non è stata acquisita da American Airlines, dove è rimasta fino ai licenziamenti che sono arrivati dopo la crisi causata dall'11 settembre. Ora vola con JetBlue da 15 anni. Quando non lavora, come hobby gestisce un rifugio per il soccorso degli animali, lo ha creato a Phoenix, dove vive. Anna, spesso in uno dei suoi discorsi pre-volo, racconta una storia su come quando era una bambina, nel 1970, e il numero di piloti donne di compagnie aeree negli Stati Uniti era esattamente pari a zero, un giorno disse a una sua insegnante di prima elementare che voleva diventare una pilota di linea. E l'insegnante le rispose: non puoi essere una pilota di linea, quello è un lavoro da maschi. Un paio d'anni fa, però, il figlio di Anna arriva in prima elementare. L'insegnante sa che sua mamma è una pilota di linea, mentre suo padre è un pompiere lì a Phoenix, in Arizona, dove vivono. E la maestra chiede al bambino: Johnny, cosa vuoi fare da grande? E la risposta del figlio è: voglio essere un pompiere. A questo punto la maestra prova a ribattere con: ma non vorresti essere un pilota di linea? E la chiusura del figlio di Anna è semplicemente: pilota di linea? Sta scherzando? Quello è un lavoro da donne. my rules to wear. I want my rules to wear. You might as well look back and face up to the fact a woman rules to wear. Oh, baby. Ever since time began, way back when Adam and Eve, the woman proved she was superior. Well, she got everything. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo trovata in uno dei nostri programmi di storia americano preferiti, si intitola e si chiama This American Life, la puntata invece aveva il titolo Expect Delays, ritardi previsti. Ora ci ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo qui a Radio 24. Linee d'ombra. E noi ci abbiamo preso gusto in questa puntata che ha un titolo ben preciso, che è Solo le donne lo sanno. Ci abbiamo preso gusto con il tema delle donne che volano, vista la storia che vi abbiamo appena raccontato di una pilota di linea americana che ogni volta deve lottare con il pregiudizio di essere una donna ed essere al volante di un mezzo, al timone, di un mezzo che vola. E quindi proprio perché ci abbiamo preso gusto abbiamo voluto approfondire questa esperienza e sapere qualcosa di più e abbiamo chiamato un maggiore dell'esercito italiano. Lei è si chiama Elena, Pamela Elena Sabato ed è un ufficiale pilota di elicotteri. Pronto, maggiore, buongiorno. Buongiorno. Grazie mille per essere qui con noi. La sentiamo un po' male, ma adesso aggiustiamo sicuramente la linea. So che in questo momento non è in volo, giusto, maggiore, no? No, non sono in volo, altrimenti non potrei collegarmi telefonicamente. Immagino, è a casa perché ha avuto da poco un figlio, mi diceva Anita, no? No, sono a casa perché le scuole sono chiuse. Ok, quindi deve accudire il figlio. Senta, maggiore, da quanto tempo lei pilota elicotteri? Allora, sono praticamente 11 anni. Io ho frequentato l'Accademia Militare di Modena nel 2001. Sono diventata prima ufficiale dell'esercito. Dopodiché ho fatto il concorso per entrare a far parte della schiera dei piloti dell'aviazione dell'esercito e dal 2009, quindi sono 11 anni. Sì. Dal 2009 che ho preso il brevetto e sono pilota. Maggiore, so che lei non pilota tra l'altro elicotteri qualunque, lei pilota degli elicotteri Mangusta. Sì, l'elicottero l'H-129 Mangusta, che è un elicottero d'attacco in servizio attualmente solo presso l'esercito italiano. E quindi ha volato in zone di guerra, si può dire, o difficili, insomma, in missioni in cui c'era chiaramente bisogno di questo tipo di velivolo? Sì, c'è ancora bisogno. Io sono stata 4 volte impiegata in Afghanistan, tra l'altro l'ultima è stata da maggio ad agosto dell'anno scorso e sono stata comandante dell'unità proprio che aveva i Mangusta. E ogni volta è stata un'esperienza molto bella e particolare, devo dire. In quel caso, in che occasione si alza in volo un elicottero come quello? Cioè, ci sono dei piani di volo precisi in cui si perlustra una zona oppure volate solo quando c'è bisogno e viene richiesto un intervento? Diciamo che attualmente il nostro impiego è fortemente deterrente, nel senso che noi, il nostro compito principale è quello di garantire l'evacuazione medica in caso di necessità dei nostri colleghi che operano a terra. E visto il contesto in cui operiamo, è necessario per gli elicotteri che effettuano il trasporto che ci sia una scorta armata. Quindi noi ci occupiamo di tutto ciò che è la scorta armata. Okay. In più, nel caso in cui c'è la necessità, possiamo decollare per fornire proprio la protezione della base. Senta, visto che stiamo raccontando dei pregiudizi rispetto al fatto che una donna faccia un lavoro che unanimemente è considerato ancora probabilmente un mestiere da uomo, lei com'è vissuta quando scende dall'elicottero in un luogo che magari non conosce nessuno, si toglie il casco e scoprono che c'è una donna sotto quel casco? Guardi, all'inizio non è stato facile, nel senso che c'era tanta sorpresa, no? Pertanto, come ogni novità,